inizia la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Vabbè, niente, casca. Un disastro, un disastro. Quanti 5 o'clock, Radio Onda Rossa. 87,9 della banda romana e laziale. Allora, intanto ci siamo dimenticati la scaletta, quindi andiamo a memoria. L'ordine più o meno è quello, vediamo un po' che riusciamo a combinare. Se riusciamo a prendere le tracce giuste che avevamo preventivato, la scaletta al solito è notificata, scritta di pugno sulla scarceranda. La scarceranda è rimasta a qualche centinaio di metri da qui, vabbè. Tutta la preparazione, tutto il viaggio, tutti gli oggetti necessari e poi manca l'indispensabile, come al solito, come sempre. Radio Onda Rossa che permane un po' da sempre in emergenza economica, per cui vi chiediamo ovviamente l'ausilio, oltre che il contributo che date per la radio in maniera costante e continua con i vostri interventi, le vostre provocazioni, le vostre corrispondenze, il vostro partecipare in qualche misura alla vita della radio, le vostre partecipazioni qui in diretta e soprattutto con le lotte che fate, perché è un po' questo lo scopo, il ruolo della radio, quella di essere il megafono di queste lotte. Dal 1977 c'è un sito, la radio c'è un sito, www.ondarossa.info, andate sul sito e cliccate su sostieni, quella è la maniera giusta per conoscere tutte le modalità con cui poter contribuire economicamente alla vita della radio. Noi vi rammentiamo il numero 618040.01, numero di conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 560185, Roma, San Lollo. Comunque da una parte la sfangheremo perché c'è lavorio qua in questa notte in negli studi della radio, perché si prepara il Friday Night On Air, ovvero lo spot, insomma la propaganda della iniziativa di cui parleremo, credo riusciremo a parlare fra un pochino. E comunque in estrema sintesi è la radio che ritorna a farsi vedere tanto in tanto con le sue dirette dai vari spazi occupati della città. Quando ne abbiamo la forza, quando ne abbiamo la possibilità, lo facciamo. Noi invece nel frattempo, proprio perché poi sarà una notte Friday Night On Air, senti quanto è difficile, poi questa cosa vedrete che tornerà. si tratta di blues, noi manderemo punk, appunto. Quindi la scaletta ce la siamo dimenticata, le cose da dire ce ne stanno troppe, quindi faremo confusione. Insomma, questa sarà la 25 o'clock di questa notte. Un classicissimo, insomma. Onda rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio. 25 o'clock @ondarossa.info, la mail invece dello spazio che state ascoltando per i vostri insulti o le vostre proposte musicali. 06 491750, recapito telefonico della radio da sempre. Accendete di rosso la redazione della radio più rossa che c'è. Street Chinggin Khan The U dalla Mongolia e così Radio Onda Rossa ci autocita. Allora 23.05, poi la rimandiamo da capo, non vi preoccupate. E quindi da impatto la trasmissione contro la nocività di Radio Onda Rossa, che vi manda manetta The U dalla Mongolia, una band insomma che comunque fa milioni di visualizzazioni su YouTube e di cui insomma, dato che va su YouTube e noi insomma non ci piace, non lo facciamo tanto, ma non perché non ci piace, perché abbiamo delle preclusioni ideologiche verso gli strumenti, è che proprio mettere i dischi ci dà gusto. E ci dà gusto mettere questi dischi qua in un'epoca d'oro, probabilmente a metà strada proprio fra quella che era la programmazione della vecchia trasmissione di questo spazio del lunedì, ancora prima del lunedì, poi dopo del mercoledì. E quindi a cavallo di quegli anni siamo andati a ripescare un bel po' di tracce, ce ne stavano di tracce e di dischi, ce ne stavano una infinità veramente da mandare. Quindi quella parentesi che vedeva la fine degli ultimi anni di Next Time, insomma l'inizio di 25 O'Clock. Stiamo parlando proprio degli albori del nuovo punk, quello statunitense, che era molto legato a un certo crossover, a un hardcore statunitense che era nato agli inizi degli anni 80. Questa era la nuova generazione di Offspring. E questa da capo è la loro Black Bold Offspring, dal loro primo disco The Offspring, da capo. ovviamente di questo punk americano la maggior parte viene dalla West Coast. E The Offspring forse, dico ma forse, non abbiamo notizie in tal senso, proprio ammiccava, insomma, e si riferiva proprio al fatto di essere la nuova generazione dopo quella dei Youth Brigade, dei Bad Religion, o anche prima degli X, o magari degli Asker Due invece, che venivano da altre zone degli Stati Uniti. Comunque un punk, quello americano degli anni Ottanta. Che si staccava nei modi, nei ritmi, negli atteggiamenti da quello britannico. Per non badare troppo all'aspetto fisico del proprio presentarsi sui palchi, ma all'energia che si riusciva a sprigionare e soprattutto a quella contaminazione con gli stilemi di quelle zone, quindi con il surf, il garage, la musica californiana, in particolare degli anni 60 e poi ancora, e lo vedremo percorrendo questa scaletta, il country, la musica delle campagne dei mandriani. E poi ancora il soul, il funk, insomma. Questa è 25 o'clock di questa notte, andiamo avanti. Invece facciamo un po' un bel salto avanti, perché andiamo ormai nel 2004, quando uscì, credo, il primo lavoro dei Tiger Army. Loro invece mischiavano proprio questo punk West Coast con il punkabilly e uscivano fuori appunto questi Tiger Army, da cui andiamo a ascoltare la tranquilla sesta traccia di questo lavoro, che si chiama Third Ghost Tiger Eyes. La sesta traccia si chiama Rose of Devil's Garden. Onda Rossa 25 o'clock. The devil's garden, in shadow it grows alone. Many things are dangerous now. In this garden we call home. Careful as you make your way, yeah. Some things are poison to the touch. Spent your life here in this place now. You long to run away so much. My love is a black rose. My love it is a black rose. Held out to you by hand of fate. Held by the hand of fate now. And as this dark romance grows, it's not from the sun, but the starlight. So far away. As for me, where I want you, E passiamo invece a un'altra band, senz'altro più politicizzata, faceva appunto del testo politico, della propaganda politica, almeno di quella che era la loro elaborazione, il centro della loro produzione artistica e musicale. Vi abbiamo poi persi un po' di vista, però appunto in quegli anni ci stavamo abbastanza in fissa. Si trattano degli Anti-Flag. Ed era il periodo, proprio quello del 2004, delle guerre in Medio Oriente, della invasione dell'Iraq da parte dell'esercito statunitense e dei suoi alleati. Tanto a dire, tanto a riflettere su come quei luoghi siano oggi una polveriera. Con una guerra che da quegli anni praticamente non si è mai interrotta, di più o meno elevata intensità, una guerra che sta rielaborando dei confini che probabilmente risentono della vecchia divisione coloniale, e allo stesso tempo una guerra dove le varie aree di influenza, le varie oppressioni vedono anche importanti momenti in cui, con le dovute e caratteristiche peculiarità di quei luoghi, si sviluppano anche movimenti di liberazione importanti. Vabbè, questo è post-war breakdown e probabilmente anche qualcosa d'altro dopo. 23:19 minuti, Onda Rossa, 20, Onda Rossa, 25 o'clock, Anti-Flag. till we break out. Primi sulle frequenze di Onda Rossa. Lasciamo gli anti-flag. Mentre noi ci eravamo spostati altrove. 06491750 da Radio Onda Rossa. Vi andiamo anche così a raccontare, a dire, a ricordare che il centro sociale IPO fa 32 anni e che è previsto un ricco catalogo di iniziative. Si inizia sabato 30 novembre alle ore 20:30 con la cena sociale di autofinanziamento a sottoscrizione. È gradita la propria, la comunicazione della propria partecipazione alla cena. Sabato 7 novembre dalle ore 22:30 concerto rock alternative noise metal con quattro gruppi che si esibiranno. Zuma Irradia, Hypnotical Factory, Civil. Ingresso a sottoscrizione libera. Giovedì 12 dicembre alle 17:30 correva l'anno 1969, la strage di Stato di Piazza Fontana e le altre bombe, incontro, dibattito a 50 anni di distanza dall'inizio della strategia della tensione organizzata dagli apparati istituzionali e dalla democrazia cristiana, con la gentile collaborazione degli alleati della NATO, la manovranza dei fascisti. A seguire cena sociale a sottoscrizione. Che ricorda come dal 27 novembre del 1987 marinesi e castellani entrarono nei locali dei gradi dell'ex GIL di Via del Giardino Vecchio per utilizzarli fuori da ogni logica di mercato e costruire iniziative di lotta a difesa delle classi popolari che ieri come oggi affrontavano i problemi quotidiani riguardanti casa, lavoro, sanità, condizioni di genere, scuola, università, trasporti e nocività ambientali. Ed è il volantino che potrete andare a recuperare da qualche parte in rete. Lasciamo gli anti-flag e andiamo agli altri capostipiti da Fat Mike, insomma, per capirci, cioè NoFX. Era segnato tutto sulla scarceranda, come sempre, la scaletta con anche le note salienti, tipo l'anno di pubblicazione di questo disco, che non ricordiamo affatto. Si tratta degli anni 90, comunque, forse primi, forse ultimi, non ci ricordiamo proprio. Si chiamava A Perry Zoo. Of entry into what's ahead. Do you know what to say? E come di consueto la parte ironica, burlesca da parte dei NoFX la fa da argomento principale Filthy Phil Philanthropics. La seconda traccia che appunto va a mischiare i vari generi dall'hardcore allo ska alla burla, appunto NoFX, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Recluse abandonment. siamo passati quindi dal 1996 di Ivy Pitting Zoo a The War of On Errorism, Fat Mike e NoFX. Praticamente unica eccezione in questa programmazione al di fuori degli States. Per una band che però di tournée, di collaborazioni con la scena statunitense non ne ha poche. Stiamo parlando di Subhumans, ma non mandiamo Subhumans perché abbiamo pronta, diciamo, l'alter ego dei Subhumans. Subhumans infatti era un gruppo hardcore storico, anarco, punk. Ma che c'aveva appunto pure una band parallela che era quella, la band ska, di cui praticamente conservava i tre quarti della formazione dei Subhumans. Citizen Fish si chiamano. Ovviamente l'autoproduzione Do It Yourself è l'elemento traino per sia per i Subhumans sia per Citizen Fish. Il disco in questione si chiama Flinch. Andiamo ad ascoltare la seconda traccia, che si chiama Naked. Well, around for something to change. I've got a dollar in my pocket, a ticket for tomorrow, and too much time on my hands. I heard a bomb drop, must have been a thought that struck. Desperation all the time, I feel the crush, I'm still alive. Yeah. You can tell me it's easy, but I have to be smart. I've got some choices I have to make, and I hope that I can tell them apart. It's like a train wreck, running till you're out of breath, falling from a high wire, dancing when the song is over. I heard a bomb drop, must have been a thought that struck. Desperation all the time, I fear the crush, I'm still alive. All I know is it's alright. Up my melody maker, turn the light off when I leave. Don't wanna cast a shadow. Yeah. All I know is it's alright. All I know is it's alright. Allora, 06491750. Fateci sentire, fateci vedere la luce rossa che si accende. E questa è una delle band favorite nostre di quegli anni. Perché vedete, ha la potenza, la rapidità, al... So I pray that I'll stay. Al ritmo incessante del suono si univa. Tutta una simpatia dei suoni. Rispetto al mods, dai, mettiamola così, a tutta quella... quel ventaglio di sonorità che appartenevano al movimento Moz della fine degli anni 60, però che era tutto britannico. Qui stiamo parlando ancora di una band made in USA. Insomma, loro erano 22 Jacks. Da cui abbiamo ascoltato Too Much Time prima. E adesso Sometimes, 22 Jacks, e non potevano mancare dall'altra parte costoro. I feel questo era Private Tale. E non, dicevo, non eletti un po' emblema di tutto quel movimento, mettiamolo tra virgolette, punk di quegli anni. E vedete pure, ascoltate pure nella nostra descrizione un po' così di vena polemica. Wanna be the one who takes the pain. You can spank me when I do not. Claire Plank, primo disco. Forehead with a chain. Del 1991 per Green Day. Dicevamo eletti un po' emblema di quella generazione. Loro venivano da Berkeley, sì, dall'università, quella famosa degli anni 60, e questa era l'edizione degli anni 90 di quelle, di quel movimento là. Sottrazione, potremmo dire, ancora polemica. Ma in realtà forse c'è un po' di stizza così dei vecchi punk, dei punk della prima generazione verso quel fenomeno, di cui però si dimenticano le continuità. In realtà ogni epoca c'ha il suo. E comunque in tutta quella vicenda c'era anche chi aveva qualcosa da dire. Andiamo ancora, restiamo ancora un po' più a sud, sempre in California, The Queers. Un'altra di quelle band che mandiamo subito sotto la nostra voce. In questo caso uno split con una band italiana. Che erano i Mangas. E qui i Queers si dilettano con una serie di cover del surf. Che ascoltiamo? Ciri ciri, poi Attilan Sale, insomma le riconoscerete. Queers, Radio Onda Rossa 25 o'clock, 87.9 della modulazione di frequenza, daje! What you doing to me, what you doing to me, what I want you to do. record label. Spent the events on a pinball table. Sold 100 records to all her friends. Now she's back again. She lives in a flat way up in the sky. Goes out with a boy through the MC5s. Wears a different t-shirt every night. With access all areas pinned on tight. See her running around. She's the girl about town they heard of. Running around, she's the girl of that town they heard of. See her running around, she's the girl of that town they heard of. Girl of that town they heard of. Girl of that town they heard of. Quattro minuti primi, Onda Rossa, 25 o'clock. E così per darvi, perché ne abbiamo parlato da questi microfoni, da questa radio, da questo spazio in varie occasioni, è passato ormai molto tempo da quel novembre del 2011. Quello ottobre 2011, quando appunto nell'onda di una serie di movimenti che si sviluppavano un po' in tutta Europa, dalla Grecia alla Spagna e anche nel nostro paese, comunque in un contesto di manifestazioni internazionali che erano contro il sistema economico che ha portato a quella enorme crisi finanziaria, ma anche umana, sociale, globale, che ci fu dal 2007-2008 in poi. Iniziare con il fallimento della Lehman Brothers, quindi di carattere finanziario, a causa dei mutui subprime, cioè alle speculazioni fatte sui mutui delle case negli Stati Uniti, che aumentavano giorno dopo giorno, ma che dimostrò la debolezza di un sistema basato sulla speculazione, ma che se la speculazione permetteva enormi guadagni ai soliti pochi noti, non era in grado poi di redistribuire queste ricchezze, anzi non è che non era in grado, non voleva proprio, cioè era proprio il centro, quello della speculazione, quello di... procurarsi facili profitti fregandosene del resto. Questa cosa portò enormi livelli di disoccupazione e una ristrutturazione pure del mercato del lavoro ulteriormente verso la precarietà, perché poi alla fine i posti di lavoro persi per l'incapacità produttiva di quell'epoca portarono le piazze a riempirsi proprio per la incertezza, ma più che altro per la certezza di non avere un futuro. Manifestazioni in tutto il mondo, manifestazione a Roma il 15 ottobre, cui e non era la prima, non fu l'ultima, insomma, di quell'onda di movimenti, ma che però appunto presero, così vista dall'oggi, non tanto una consecutività e un discorso di conflitto e di alternativa, ma una serie di episodi che furono repressi duramente attraverso le forze dell'ordine, dai poteri indeboliti di quell'epoca, e che portarono all'utilizzo spregiudicato di quello che in Italia è un reato per il conflitto, cioè devastazione e saccheggio, che portarono a comminare un sacco di pene lunghissime per persone che avevano semplicemente nemmeno partecipato, ma assistito alle volte a degli scontri di piazza a seguito di cariche di provocazioni pesantissime da parte della polizia, peraltro in quella data piuttosto impreparata a gestire una mole enorme, si parlava di 300 e più mila persone in quella giornata. Le conseguenze penali vengono pagate ancora oggi con una serie di processi e di pene combinate. L'altro giorno c'è stata un'udienza del processo d'appello, di uno dei processi d'appello per il 15 ottobre, che però è stata rimandata. La prossima udienza ci sarà il 12 dicembre prossimo alle ore 12. Ovviamente noi raccomandiamo la solidarietà di tutti e tutte ai compagni e le compagne che sono rimasti imbrigliati nella rete della repressione con grave pregiudizio però della possibilità di esistenza normale di questi ragazzi e di queste ragazze. Quel che pure è da registrare è che se all'inizio la solidarietà è stata abbastanza diffusa e partecipata, oggi le cose non sono così, quindi raccomandiamo a tutti e a tutte di partecipare alle iniziative di solidarietà appunto per i condannati. Ancora no, ovvero ancora sì, perché in primo grado sono stati condannati, insomma, nel processo di appello che ci sarà il 12 dicembre. Credo che se riusciamo ritorneremo anche sopra questa faccenda, magari più diffusamente, più precisamente. A un minuto dalla mezzanotte noi ci abbiamo pronti Pipe Down e la loro Mutination. Lavoro del 2003 per F-Record, cioè quella degli Anti-Flag. Perciò Pipe Down, Ammutination, testo che prende spunto dalla vicenda di Martin Luther King. Onda Rossa, 25 o'clock. Oh, e siamo approdati in casa Proc Fan Existence. E cioè l'etichetta che è nata a Minneapolis nel 1989 e che metteva insieme una scena di band narcopunk, crust e grindcore. Quindi con le tematiche caratteristiche di quella scena, quindi il do it yourself essenzialmente, l'antispecismo. E comunque la... la linea sempre politica delle formazioni che vi partecipavano. Nel nostro caso stiamo parlando di Ballast e del lavoro uscito nel gennaio del 2006. Che si chiamava Sound Asleep. Da cui abbiamo ascoltato Day by Day. I suoni più o meno rimangono gli stessi, ci spostiamo invece nuovamente nella zona della West Coast. Questo dovrebbe essere uno dei primi loro lavori, si chiamano gli Efi e Fai Inside. Ever and the Day si chiama la quarta traccia che andiamo ad ascoltare e poi. All the sweet calamity with nothing left to lose. Lie in the darkness, I'm slowly trying to sleep with nothing left to lose. Whoa, stitches I've saved. Pronto, mi senti? Sì, Pronto? Pronto America, mi senti? Pronto America, mi senti? Pronto? No, ci dovremmo quasi essere. Eccoci qua in diretta. Ora ci sei. Ah, bella trasmissione, professore. Scusaci, ti presento il mio socio Spider. Ma poi invitato. Vabbè, comunque l'invasione di Blues Night. Mica ce l'hai invitato, noi caliamo, no, quando ci fate. Mica me l'hai detto che ci aveva invitato. No, come no? Sempre a me la colpa. Dovere... Allora, io mi sto allenando a fare tardi. Mezzanotte e 12 minuti. Inedito sulle frequenze di Radio Doro. Che dormivi? Sì, è piena fase REM. A parte il venerdì, no, perché il venerdì noi alle 11 finiamo, sì, piano piano. Sì, sì. Ma la fase REM è anche durante la trasmissione, non è che è anche evidente. Se comunque il venerdì è il giorno di tutta vita, quindi sì, venerdì tutta vita, venerdì prossimo siamo in onda qui da Radio Onda Rossa, venerdì prossimo ancora, il 6 dicembre, siamo in onda, cioè in onda, ma non da qua, dall'esterna, potenti mezzi, grandi sforzi, un grazie alle compagne e compagni che ci consentiranno di trasmettere in diretta praticamente tutto il palinsesto serale del venerdì Radio Onda Rossa dalla SNIA, perché facciamo con qualche intrusione poi. Sì, con diverse intrusioni, e vedremo, anzi toccherà transennare l'aria, perché io temo che più di qualcuno porterà i propri dischi, insomma dovremmo essere attenti. Quindi sono benvenute tutte le intrusioni. Sì, il professore già si è invitato, qui dobbiamo selezionare, Fefo. No, vabbè, ma io mi invito sempre, poi alla fine vado a qualche cosa di sottoscrizione, insomma, state tranquilli. Spider, di qualcosa. Che dico? Non essere diciamo, no, diciamo stavo di che leggendo. Stiamo parlando perché esatto. È un paio di mesi che ci sta lavorando, ma ancora non ha imparato a leggere. Sono un tipo preciso. No, allora voglio. A te ti ha rovinato la tecnologia. C'ho davanti esattamente quello che dobbiamo dire. Cioè che Blues Night presenta venerdì 6 dicembre, quindi non il prossimo, quello dopo ancora, al centro sociale Ex Nia Viscosa in via Prenestina 173. Nonché in diretta sugli 87.9, venerdì è quando trasmettiamo noi, per cui la nostra trasmissione andrà in diretta e sarà una... in realtà prenderemo la linea lì dalla SNIA dalle 19.30. Non ti scordare né il fax né il fagiolino, che ci sarà anche lui, eh. Esatto, come ogni venerdì ora sera. Vedremo se ci farà proprio il piacere di stare insieme a noi la sua trasmissione. Comunque dalle 21 alle 22 è garantita, ci saranno i Fagiolino è un impiccio per i DJ, lo dico già da adesso, insomma siamo lo sappiamo. Ce ne faremo una ragione. Ma abbiamo detto che presentiamo Scarcerando appunto, dicevo che alle 19.30 prendiamo la linea da un inedito assoluto, sarà la per i radio. Aperiradio. Io non ho mai sentito questa parola, chissà se abbiamo coniata. Come funziona l'aperiradio? L'aperiradio significa che faremo l'aperitivo mentre si ascolta la radio. Si fa la radio, si presenta Scarcerando. Si fa la radio. Scarceranda 2020, un grandissimo compleanno perché sono 20 anni di Scarceranda. 20 anni di questa agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa, questa agenda contro il carcere, l'agenda che arriva in carcere a chiunque ne faccia richiesta, noi la racconteremo, la illustriamo. Ci sarà sicuramente Valerio Bindi che è il deus ex machina delle copertine di Radio Onda Rossa. Sempre un po' occulto, Valerio non si espone mai, però dietro ogni Scarceranda c'è un Valerio che agisce, si muove, elabora, ha il copyright delle copertine. Sì. Quest'anno le copertine sono di Ma non ce l'avevi scritto, guarda un po' che ce l'hai scritto. È preparatissimo. No, sono preparato. Ce l'hai scritto anche tu. Ma sì, è vero. Io. Alessandro Ricchio ha fatto la copertina. Alessandra. Ho detto Alessandra. E invece quella del quaderno è di Yassim, che è un carcerato che sta in Turchia. No, in Egitto. In Egitto, ok. e dovremmo organizzarci per spedirgli anche lui. Sono due copertine, così ve le facciamo vedere per radio al solito, che sono due copertine floreali, quasi a significare, quindi per il quaderno e per l'agenda, lo commentavamo prima con Spider, che comunque non si può reprimere come sbarre che non che la vita in un po', che la vita germinare anche nelle peggiori condizioni, quelle carcerarie, delle sbarre, sbarre che non possono del cemento, che non possono incarcerare. E a tal proposito, guarda, neanche a farlo apposta, il tema ho aperto l'agenda sabato, anzi domenica 24 maggio, e quando aprirete l'agenda fra qualche mese, il 24 maggio, avrete modo di leggervi questa bella, bellissima poesia che si chiama Muri. Isolanti barriere di grigio cemento, muri innalzati per trattenere corpi ma anche pensieri e speranze, muri che rendono vano ogni sguardo d'occhi, muri invani, fallaci, per quanto alti e ornati di ferro tagliente, incapaci di annichilire la volontà di andare oltre, muri che nulla possono per imbrigliare i voli che la mia mente compie al di là di essi. E su Scarceranda è una bellissima poesia, come bellissimi sono tutti i contributi che vi troverete dentro, che come al solito in larga parte vengono da dentro le mura, da dietro le sbarre, cioè sono contributi che ci mandano, esatto, le persone recluse, e parte di questi contributi li leggeremo in diretta dal vivo, non saremo solo noi a leggerlo, ma io immagino che ci saranno tante compagne e compagni che verranno a farne appositamente lettura. Quindi prima, dicevamo prima, anche prima presentazione pubblica di Scarceranda per quest'anno, un'ottima occasione per accavararsi l'agenda certo, contro il carcere giorno dopo giorno e a questo punto anche anno dopo anno. E comunque dobbiamo pure dire che Scarceranda è facile reperire anche qua, no? Sì, naturalmente più felici di tutti siamo noi se venite a prendervela qui a Radio Onda Rossa in via De Volci 56. Ci potete telefonare per al 49 17 50 06 per chi chiama da fuori Roma, ovviamente, per prenotarvela. E noi andremo avanti dalle 7.30 alle 19.30, non spaventatevi, non è mattina, alle 19.30 con sulle note di Bruce Knight, del professor Fefo, di Notibus Panis, chi più ne ha più ne metta. Chi vuole venire. Arriveremo fino alle 23, concerto, il Fleurs du Mal, mandiamo in diretta sugli 87.900, pure quelli. In diretta dal vivo a chi starà con noi a ballare, ridere e scherzare, a comprarsi l'agenda, a sottoscrivere per Radio Onda Rossa, e dite voi. Comunque niente, dai, avremo modo anche di magari aggiungere qualcosa, sia appunto venerdì prossimo a Blues Night, sia 25 o'clock prossimo, sia nelle altre trasmissioni della programmazione della radio, ovviamente. Certo. Stop it, tell us. trial is a symptom. Questa era forse una delle band più forti di quel periodo là, si chiamavano Trice. E questa era appunto Betrayal is a symptom. Non ci abbiamo la data qui davanti in bella mostra. La copertina del disco comunque dovrebbe essere ormai anni 2000 avanzati per loro. Ci avviciniamo ai giorni attuali con un lavoro uscito 10 anni fa, Ci spostiamo dalla West Coast. Ci spostiamo dagli States e ce ne approdiamo in quel di Toronto. Anche loro mettevano e mettono al centro del loro intervento musicale tematiche di carattere sociale e politico, insomma di ribellione comunque. Stiamo parlando di Fuck It Up. Couple Tracks, un lavoro che fa un po' la somma di, attraverso un doppio di 10 anni di produzioni. Ci andiamo ad ascoltare Generation. من جد الولد فلسطين ناجينا جايين والعز انولد يا قدس ناجينا حنا الشعب المدينين جايينك يا فلسطين حنا الشعب Armstrong e soci, ovvero sia Rancid, ancora da quella fucina che è Berkeley. Loro non nascondevano assolutamente la ispirazione che traevano dai Clash. Vendettero milioni di copie dei loro dischi, insomma. Colsero il giusto momento, la giusta vena, non mancando però di produrre tante tante giovani band della scena che si presentava. Mettendo insieme un sacco di collaborazioni. E tra l'altro spaziando anche nel sound fra appunto quello che è combat rock in stile classico alla Clash, appunto all'hardcore. Delle volte a dischi anche più rumorosi, non mancando però di mettere sempre qualche ritmica caraibica dentro. Dentro la loro produzione. 34 minuti dopo la mezzanotte, non accenniamo ancora ad andare via, malgrado tutto, malgrado tutti, malgrado tutte. Onda rossa nella notte. Listen up, all you skagheads, sure rats, gangsters, villains and whores. The dark figures from the shadows crept up from behind. Well, they brandished a gun, pointed directly at his face. E questa è un'altra di quelle band che fecero il botto, come si suol dire. But you're making a big mistake. In quegli anni, insomma, i soldi venivano fuori. Perché kids brufolosi andavano a comprare i CD delle band del nuovo punk. Loro parteciparono pure alla colonna sonora di qualche film di cui noi ricordiamo comunque Sum 41, Ride the Chariot of, to the Devil, Sum 41, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Andiamo pure Sum 41. Di tutta la produzione di quegli anni che curammo in quel tempo in maniera abbastanza approfondita, andandoci ad accaparrare i vari dischi, ordinandone a volta all'uscita la copia. Sì, cominciava a esserci un po' di roba che si scaricava in rete, però la cosa era abbastanza macchinosa e comunque il piacere di avere il disco fra le mani la vinceva. Loro vengono a Seal Beach in California, ovviamente, dove poteva stare un posto che si chiama Seal Beach, la spiaggia delle balene. Ho detto balene, eh? Sì, il beach ovviamente non è la spiaggia delle banane, la spiaggia delle foche. Loro, dicevo, si chiamavano RX Bandit e erano estremamente curati nel suono. Sì, insomma, la vena punk ci stava, ma era commisurata, insomma. Dentro tutto un altro ambito musicale di influenze multiple, vengono definiti ska punk, punk ska, insomma, ma non ci sta dentro solamente lo ska, ovviamente ci sta pure qui del soul, ci sta del funk, ci stanno delle ritmiche e delle linee di batteria basso che vanno a ripercorrere tanti anni di storia. Ce li ascoltiamo, RX Bandit. All the time. Getting happy, think you lost your style. Maybe we'll be here a while. What's said and what is just suggested? I think you already know. Just what you wanted to do and where you'd end up. Oh, oh, it's all the time, it's all by myself. Oh, oh, it's all the time, it's all the I wanna your country. They didn't say, why don't you pick up a gun and shoot at somebody? But they're only gonna protect you if that dollar sign is right. There's a war in every nation, but we turn our heads tonight. Here we ride, we're on vacation. Money took over a long time ago. Cry for this racial war in our reward is glory. There ain't no glory in a war. Ain't no glory. A black man or a white man or an Asian or a Mexican or a African or a South African or a Serbian or a Libyan citizen. You're all one race, sister. The human race, sister. A different smile for a different face. We all one race, sister. The human race, sister. Different smile for a different face. Human rights went on vacation. Money took over a long time ago. For this racial war and our reward is glory. many challenges, on many levels I know. You know what you're chasing, forget your reputation, and just let yourself go. Show no fear, na-na-na-na-na. The better step is a place, step into the better step up and show no fear, na-na-na-na-na. The better step is a place, step into the better step up and show no fear, na-na-na-na-na. Ed eccoci qua, 51 minuti dopo la mezzanotte, pronti quasi per mandare la traccia successiva e ultima per questa sera. Stiamo parlando, abbiamo parlato adesso di The Peer First, Show No Fear, una traccia che non ci starà ascoltando sicuramente ormai a quest'ora della notte, però c'ha un proprietario. E concludiamo con Blue Mannings, The Fitznik. Da questo lavoro che abbiamo, da questo disco, da questa raccolta che si chiama Music to Kill For. E che girava intorno alla etichetta Side One Dummy. Allora, perché i dischi venivano direttamente dalla Grande Mela, arrivavano dritti dritti qua in radio da lunghe ore passate negli enormi palazzi che vendevano dischi in quel di New York o nelle altre metropoli degli States. Quindi Blue Mannings, 25 o'clock, onda rossa, eccoli qua. Quindi noi andiamo a chiudere questa puntata di 25 O'Clock. Deliver me from Indian cred. Deliver me, cause punk rock's dead. Slip away. Del 27-28 novembre 2019. Slip away, lay down. Vi ricordiamo Friday Night On Air. Ex Snia Viscosa 173 Blues Night presenta venerdì 6 dicembre centro sociale occupato del gestito Ex Snia via Prenestina 173 in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa Friday Night On Air, una serata a sostegno di Radio Onda Rossa dalle 19.30, occasione, come dicevamo e come ricordavamo poc'anzi, per la presentazione della nuova Scarceranda, agenda contro il carcere, prodotta da Radio Onda Rossa con Valerio Bindi e alcuni compagni che l'hanno realizzato l'agenda. Alle 23.30 concerto con Fleur de Mal, storica band rock blues della capitale, sarà in funzione cucina e birreria. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutti i centri detentivi per migranti. Le trasmissioni in diretta finiscono qui, si riprende domattina con la replica. Con la rassegna stampa, la lettura delle prime pagine, la rassegna stampa vera e propria, la rassegna stampa cittadina, redazionali della mattina, il giornale radio delle 13, lo spazio comunicazione, tutta scena cinema alle 14, atti e blues oltre a black music alle 16, la schiena del sole alle 17, il Mezzetes alle 18, tabula rasa. Alle 20, alle 23 chiudono i cuginetti di Apostasia. Insomma, ci risentiamo mercoledì prossimo. Bella a tutti e a tutte. Ce ne andiamo sotto la luna comunista. Dai, yeah.